P. Ascolta e indica la parola che senti. 1. È una tela di ragno. 2. Leggerà un libro di avventura. 3. La legge è in vigore da un anno. 4. C'è la luna piena. 5. È una mera supposizione. 6. È un'operazione legale.